in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Eh sì, non siamo più l'Italia di Peppone e Don Camillo. Io aggiungo purtroppo, siamo l'Italia della ferocia, delle alluvioni e delle crisi energetiche, delle piccole e grandi guerre civili. È povero, è abbastanza disperante, oltre che disperato a guardarlo, e più è costato tantissimo. Quest'anno è stato ribattezzato Spelacchio, però io una lo difendo. Si tagliavano i quadri, oggi si disadornano gli alberi. Zac, un secondo e finisce nel vuoto. La moda dei selfie pericolosi, io spero che riusciremo a spiegare ai nostri figli che è pura follia. Se mio figlio fa qualche punto, mi alzo urlando, sono il papà, sono il papà. Se fa qualche errore gravissimo, dico ai miei vicini che sono separato da qualche anno. Esiste il lato oscuro della forza nella politica di oggi? Oh. E la Casaleggio Associati è ribelli o impero? Casaleggio Associati è la Lucas Film, è la produzione, è quello che mette. Vabbè, in modo se l'è cavata bene però, eh. Buongiorno, mi ha fatto arrossire. Quindi, allora, se è arrossito vuol dire intanto che il gas ce l'abbiamo perché fa caldo. Sono ritornato famoso solo per 24 ore, non faccio più notizie da stamattina. Anche Zingaretti ha dei rapporti col mondo di mezzo. Il presidente Zingaretti è stato iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza. Tanto tuonò che Pisapia alla fine, una sorta di Godot della politica italiana. E la forza è dentro tutti noi e bisogna solo trovarla. D'accordo, ci proverò. No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare. Reach out and touch faith. Non c'è provare, maestro Yoda. Buongiorno, popolo dei già svegli. Oggi di tutti i colori, grandi notizie e grandi racconti. Saluto con me il leader dei mattinieri italiani, l'uomo che con le sue opinioni innerva la nazione, Mario Giordano. Esagerato, buongiorno a tutti. No, ma intanto quanto hai goduto? Perché ieri casualmente avevamo un torinista, l'attore Cavalli, che hai sentito, che ha detto con molta sportività, però il rigore non c'era. Invece, siccome tu, so che tu sei una carogna vera, quanto hai goduto per il fatto che il Torino ha vinto 3-1 con la Lazio? No, qua ti sfugge, noi Granata non riusciamo a soffrire queste vittorie. Non riusciamo di soffrire questa vittoria perché assomigliano troppo alle vittorie della Juventus e quindi ci sentiamo male. No, ma che è questo rigurgito buonista? Il Toro ha giocato bene, è stata una partita bellissima. Lo so, però il tifoso Granata non riesce a godere appieno, cioè non ce la fa, è più forte di lui, fa parte del nostro DNA. Noi siamo nati per la sofferenza, per i torti subiti, abbiamo nel DNA. Ecco. Il torto subito, quando invece non subiamo un torto ci sembra strano, non riusciamo a godere, quindi no, non ce la facciamo essere davvero quindi felici. Quindi c'è una superiorità morale del tifoso Granata. Assolutamente sì, c'è una superiorità morale. Rispetto a quello bianconero. Rispetto al bianconero c'è una superiorità morale direi dell'intero, adesso così sarà inondato di insulti da chiunque. Ma cioè, per il tifoso Granata noi siamo cresciuti piangendo sull'elenco dei morti di Superga, col mito di Meroni, col mito di Ferrini, con la sofferenza. Noi siamo per le vita, noi siamo i piccoli. Quindi, che abbiamo lottato contro la forza della Fiat e della Juventus nella città, eravamo sempre i pulcini. Il DNA del Toro è vincere partendo da una posizione di svantaggiato, è Davide che supera Golia. Quando sei favorito dalla sorte, non godi. Ce la fa, Quindi il mito della vittoria mutilata dei nostri nonni, bello, esatto, riletto esatto. In chiave Granata. Allora iniziamo alla grandissima, caro Mario, ti regalo e regalo a tutti coloro che sono collegati una grande battuta del maestro Arbore. No, mi hanno chiesto, dice, ma quale sarà il suo epitaffio? Io non gliel'ho detto subito, poi ci ho pensato. Amava molto l'improvvisazione, improvvisamente ci ha lasciato. Passiamo proprio al culmine della simpatia, della sintesi, anche dell'autoironia. L'autoironia funebre, no, macabra, a qualcosa di sublime, caro Mario. Sì, sì, è meraviglioso, è meraviglioso. Poi detto improvvisamente ci ha lasciato, non ci sono fronzoli, ti è. Allora, Berlusconi ipotizza un gentilone bis prima di nuove elezioni. Penso che la soluzione più corretta sarebbe quella di continuare con questo governo e di consentire un'altra campagna elettorale non brevissima alle varie forze politiche. Quindi che almeno tre mesi per il governo Gentiloni. Gentiloni potrebbe star lì. Sì, fino ma a non avverrà, perché già ora siamo di 10 punti avanti rispetto ai 5 Stelle e di qualcosina in più rispetto al Partito Democratico. C'è sempre un collega che azzecca qualcosa, raccontano Zeitgeist, il sapore di un tempo. Qui la parola l'ha inventata Polito, che ha parlato per primo di prorogazio, cioè il governo Gentiloni potrebbe essere prorogato prima, dopo il voto, indefinitivamente, come una grande, bellissima narcosi per un paese inquieto. E qui Berlusconi ci ha messo un po' la firma. Qua ti voglio sentire, Mario. Ti piace l'Italia della prorogazio? No, no, non mi piace assolutamente. Che credo che quello che Polito ha raccontato, anticipato, su cui abbiamo discusso nei giorni scorsi e che Berlusconi poi ha riportato, sia di fatto il completamento dell'operazione eutanasia del voto. Cioè il voto non serve più, cioè, se è così sì, rischiamo sì. di andare alle urne per non decidere. Oppure sì, bisognerebbe andare col retropensiero che non bisogna turbare quello che già c'è. Cioè noi andiamo a votare per cambi nulla, cioè, perché tra l'altro per il governo Gentiloni, come abbiamo letto ieri dei retroscena, non si dimette, quindi di fatto non mette neanche in difficoltà il presidente Mattarella del dover dare un nuovo incarico, per cui di fatto avremo la continuità, la prorogazione dolce, senza neanche avere il sapore del fatto che va la prorogazione. Quindi noi andremo al 4 marzo alle urne, così facciamo una gita elettorale alle urne, facciamo una gittarella, mettiamo una scheda nell'urne, ma tanto sapendo che tutto continua come prima. Veniamo da 3 governi che non sono stati eletti, avremo il 4º governo che non è scelto dagli elettori, anche grazie a questa meravigliosa legge elettorale che abbiamo ampiamente parlato nei mesi scorsi, per cui finirà che noi facciamo un bel esercizio, il voto è inutile, votare diventerà inutile perché continua tutto come prima. E questo secondo però, me è però c'è no però c'è un però, nel senso che se ci fosse un terremoto elettorale, una maggioranza certa qualunque essa fosse, la prorogazio va a farsi fottere. Gnocchi, il maestro Gnocchi, lo salutiamo perché sappiamo che lui è la mattina, è l'unico comico italiano già sveglio. Sentite Gnocchi su Berlusconi. Ma sono tutte notizie che destabilizzano. Quest'altra notizia, ad esempio, un uomo ha sfondato la vetrina di un sexy shop e ha rubato una bambola gonfiabile. Ma dico, Silvio, ma per la miseria ti è calata la vista? Silvio è sempre nell'occhio del ciclone, Berlusconi, ce lo dobbiamo ciucciare ancora una volta. Un ex militante di Forza Italia sostiene che avrebbe fatto delle proposte oscene a una ragazza di Forza Italia. La notizia è che le proposte oscene sono state fatte solo ad una. È la cattiveria di Gnocchi, però è questa immagine di Berlusconi che torna, che diciamo riprende esattamente dove eravamo rimasti, no? Sembra che il paese gli stia cadendo fra le mani, è incredibile. Sì, credo che il centrodestra in questo momento riesca a trovare la sintesi solo attorno a lui, se la riuscirà a trovare, perché ieri, diciamo, è stata una giornata piuttosto movimentata nel centrodestra, non tanto per le parole di Berlusconi su Gentiloni, che leggerai stamattina e occupano tanto sui giornali, ma io credo che la vera differenza su cui sia poi necessario vedere se si riesce a trovare un'intesa è quella sulla frattura sul voto sulla legge Molteni, quella che riduce gli sconti di pena. Lì si è andati a toccare un punto vero, no? Perché ieri Berlusconi in questa sua nuova lì proprio scesa in campo dice: io troverò la sintesi, la ridiscesa in campo, ecco, trovare la sintesi sul programma. È vero che lui la trovò ai tempi di Bossi, che diceva la secessione, quindi sarà in grado di trovarla anche oggi, però i punti di scontro sono tanto, non solo la sempre citata Europa. Ripeto, ieri in Parlamento Forza Italia ha votato, si è astenuta contro la legge che abbrevia che va contro il rito abbreviato, insomma, che riduce gli sconti di pena per reati gravissimi. Qui c'era l'accordo del PD, della Lega, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un punto sostanziale su cui poi la presenza di Berlusconi dovrà vedere come trovare l'accordo con le altre forze politiche. Cioè, la sintesi con Salvini e ieri con la Meloni che cercava disperatamente di fare da pontiera. È una geometria variabile a tre, sempre due che litigano e uno in mezzo che cerca di fare pace. Ma la frase più contestata, signori, la frase che potrebbe essere l'epigrafe di un'epoca è quella su Mussolini. Di essere andato a letto alle 6 di mattina perché mi sono letto tutti i grandi dittatori, da Hitler naturalmente, ci ha messo anche Mussolini, che proprio un dittatore non era, forse, no? Beh, insomma, nel suo piccolo diciamo che era meno violento degli altri, però insomma non amava molto essere contraddetto. No, mi devi scusare, ma io cerco sempre di dare degli appigli ai giornali per attaccarmi, no? Certo. Allora qua Mario veramente è la cosa più curiosa, cioè Berlusconi ti lascia il dubbio se, secondo me era una gaffe, nel senso che gli è sfuggito, no, ma Mussolini non era un dittatore, poi punzecchiato da Vespa, anche con tutto il portato, diciamo, familiare che si immagina, dice, beh, se lo dice anche Vespa, allora si è corretto molto bene, vi ho dato la finta gaffe per potermi attaccare, oppure lo voleva dire, ed è una delle tante frasi di micro sdoganamento con cui Berlusconi ha succhiato consensi prima Fini e ora la Meloni. Beh, questo resta sempre uno dei, non si sa mai con Berlusconi quello che voleva, quelle che sono gaffe e quelle che sono invece messaggi che vuole mandare. Sinceramente non lo so, quello lì. Sicuramente. Ma com'è che quando ti ha chiesto di candidarti in Parlamento, Mario, ti voglio capolista in un collegio? No, non mi ha mai chiesto. Abbandona il tuo mestiere? Non mi ha mai chiesto di candidarmi in Parlamento così. Beh, non me l'ha mai chiesto, però ecco, diciamo che la sua capacità poi di recupero immediato è ancora straordinaria. Se dobbiamo dire una cosa dal punto di vista comunicativo, come dicevi tu, la sua capacità, sia che sia gaffe, sia che sia una cosa sì, voluta, se era gaffe è recuperata in tempo reale, se non era gaffe è una dietrologia fantastica. È studiata, allora, perfettamente. Fermo, mettiti sull'attenti, tira fuori il fazzoletto, l'ultimo discorso di Dibba alla Camera. Avete fallito in questi 5 anni. Avete provato a fare un lavoro molto molto sporco, ostacolare un cambiamento e ostacolare quello che voi definite un populismo, ma in realtà è soltanto voglia di cambiare le cose. Questo molto probabilmente sarà il mio ultimo discorso in Parlamento in questa legislatura. Non capisco questi commenti, quasi questo giubilo. Vada avanti, deputato, vada avanti pure. Anche perché vorrei ricordare che anche per molti di voi saranno gli ultimi giorni in Parlamento. Però si rivolga, deputato Di Battista, si rivolga a me. Del popolo italiano. Si rivolga a me. Sì. Abbiamo discusso molto di questo reperto col maestro Sappino, perché anche qui c'è una grande sintesi simile, se vuoi, a quella di Berlusconi, cioè Di Battista, facendo il discorso addio, già si pone come anticasta, si rinnova in un rito battesimale dicendo voi del palazzo, voi siete cacciati, io me ne vado in mia sponte e torno nella società civile. Sì, devo dire che in questi giorni abile. Sì, è abile, nel senso che anche lui è stato abile, ripeto, come prima diciamo che Berlusconi è stato abile a giocarsi con la cosa, Di Battista è abile, ha fatto una scelta, onestamente, poi si può fare tutta l'ironia che si vuole, il bebè, il bambino, il papà, però ha fatto una scelta che fino adesso non aveva fatto così in modo nessuno, e la rivendica, tra l'altro la rivendica, esatto, in un Parlamento, ribadisco, ieri ne hai parlato a lungo, in questi giorni ne abbiamo parlato a lungo, che è appena detto, dopo tutta la cosa, ha detto no al taglio dei vitalizi. Che, allora fermati me, perché so che è la tua battaglia, subito dopo il traffico, perché qui serve tempo. Facciamo un'avvertenza sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Sono già sveglia perché mi alzo la mattina per preparare il pranzo per mio figlio che va al lavoro e vengo fuori in terrazza a guardare la superluna sulle montagne. È meraviglioso, vale la pena. L'albero minimalista spelacchiato come sta povera Roma nostra forestiera, come diceva Nannarella, manderebbe pure bene, ma qualora fosse costato di meno, chi ci ha mangiato? L'effetto Renzi è stato come un tuono ed in politica piove l'abbandono. Fugge Verdini, Prodi, Pisapia e per fortuna Alfano scappa via. Luca, ciao, sono Tina. Sono già sveglia perché già mi sveglio sempre presto. Alle 6 sono in cucina. E non siamo vecchio, pure se ho 89 anni. Io sono molto, molto delusa. Non capisco perché l'Italia non si muova. Telete, faccia qualcosa lei. Dica qualcosa lei, ma di significativo. Rieccoci. No, non sei vecchia a 89 anni, perché nella radio siamo tutti eternamente giovani, nella mattina siamo tutti eroi. Allora, una storia bellissima che riguarda questo tema che vi ha appassionato, caro Mario, la vera storia di Spelacchio. Grazie agli amici di questo grande network, una segnalazione mi è arrivata da un ascoltatore, una notizia, una dritta, come si dice, me l'hanno dato gli amici di Radio in Blu. Sono andato in Val di Fiemme e ho scoperto la vera storia di Spelacchio. Sono stato lì inviato, poi lo racconteremo con un personaggio straordinario, il capo dell'associazione dei boscaioli che ha tirato giù questo albero, questo abete. E quando lo hanno tirato giù, si sono indignati vedendo le foto dell'albero di Roma. Era sano, aveva le fronde rigogliose e aveva 100 anni di vita, ha visto due guerre mondiali, è sopravvissuto all'alluvione del 66 che è corsa impetuosa sul suo tronco, e andare, dopo aver visto re, imperi, guerre, soldati asburgici, andare lì a finire in una polemica della giunta Raggi, Spelacchio non se la meritava. Quindi noi, onore delle armi a Spelacchio e gloria al capo dei boscaioli, che sentiremo che uno di quelli pensa. Questa associazione è nata nel 1115, quest'uomo la rappresenta splendidamente, racconta il rapporto simbiotico che hanno col bosco, come lo tagliano, come lo hanno eradicato con dolcezza. Dice: il valore di un albero non è il legno, è la vita, tirarlo fuori vivo. Dice: dal 1115 una cosa così non c'era mai accaduta. Però dal 1111, scusa. No, dico, questa è una bellissima metafora. Adesso oggi, oltre che le ire degli juventini, mi attivo anche quelli dei romani. Però è una bellissima metafora di Roma. Cioè, oggi anche le cose migliori, quando arrivano a Roma, vengono improvvisamente corrotte. Cioè, l'impossibilità di arrivare a Roma e di restare sani. Cioè, tu sai, purtroppo oggi devo dire, sono d'accordo con te, Roma spelacchiona, perché l'altro lato tremendo di questa storia è che i meravigliosi boscaioli trentini l'albero lo hanno regalato gratis, tranne ovviamente le spese tecniche di imbracatura, i materiali che sono serviti. E la cosa che, siccome per loro è come se fosse morto un congiunto, avevano le foto perché quando eradicano un albero vivo fanno i selfie come al neonato. La cosa incredibile è che quest'albero ha viaggiato tre giorni. Ha viaggiato tre giorni soffrendo, chiaramente, e questo viaggino è costato 39.700 euro alla giunta di Roma. Ora, anche questo è un simbolo, Mario, di burocrazia e paraculaggio. E sai perché 39.700 e non 40.000? Io so che lo sai, perché sennò serviva la gara d'appalto, invece così l'hanno dato in affidamento privato a una meravigliosa, efficiente impresa che col trasporto speciale ci ha messo tre giorni, neanche lo portassero dal Congo, tanto Dio. Ora, 39.000 euro per spostare un albero dal Trentino, regalato al Trentino, è straordinario. Però vedi che c'è tutta la metafora, c'è la corruzione. C'è in shuttle lo potevano portare. Lo potevano portare. No, non dire corruzione perché ci becchiamo una querela. Diciamo entropia. No, ma la corruzione non in senso la corruzione umana, cioè il fatto che una cosa che è bella diventa brutta, intendo, non in corruzione di denaro. Una cosa che i boscaioli ti hanno detto, la piantina era bellissima, arriva a Roma ed è brutto. è la, come dire, la corruzione umana, cioè il fatto che uno si rovina, è il fatto che se uno arriva lì è difficile rimanere in sé, persino per un albero, persino un albero non riesce a rimanere albero nel momento in cui arriva a Roma. Allora noi cantiamo gli alberi di Trentino e anche tutti gli altri. Arrivano messaggi quasi imbarazzanti per te, Mario, di a Giordano che è l'unica cosa per cui vale la pena è continuare a vivere. Questo deve essere proprio uno del Torino, cioè tu sei l'unica cosa per cui vale la pena di vivere, l'unica persona seria rimasta. Poi un'istigazione a delinquere, Luca lo ha interrotto, fa incazzare Giordano sulle pensioni, sui vitalizi, la legge che non è passata. Vai un minuto sui vitalizi ai tuoi livelli artistici. No, ma è una vergogna. Nel momento in cui si allunga l'età pensionabile, si lascia e si certifica che non si può tagliare la pensione a Claudia Lombardi, a 44 anni, prende 7.000 euro di pensione al mese, ex presidente del Consiglio regionale della Sardegna, che è andato in pensione a 41 anni, a 44 ne prende 7.000 euro al mese di pensione, si dice che non si può tagliare perché quello è un diritto acquisito. Poi mi si dice che così si alimenta il populismo. No, così si alimenta semplicemente, è una follia. I diritti acquisiti sono i diritti acquisiti dei cittadini, quelli vengono costantemente calpestati e la difesa dei diritti acquisiti della cassa è, secondo me, l'ultimo segnale di un Parlamento che dà un segnale terribile in questa sua chiusura. A te, proprio un'opinione sobria, io su certe cose non sono d'accordo, ma la passione con cui Mario le esprime le rende insindacabili. Le consegniamo così, abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo, salutiamo Mario Giordano. Ciao, buongiorno, ciao. Buona giornata a tutti, ciao.